Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Direi che c'è un po' di confusione, questo è chiaro. Il doppio AD non funziona, anche perché comunque mi sembra chiaro che ci sia una mancanza di unità di intenti tra il signor Galliani e Barbara Berlusconi. Manca un progetto, ci sono meno investimenti rispetto a una volta e questo sicuramente non aiuta. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace. Ho sentito anch'io questa voce, ma io non credo che Paolo sia disponibile, perché è entrato come socio in una società in America e quindi credo che ormai si sia tracciata una strada che lo vede americano. Ricominciamo. Sono co-proprietario del Miami FC, ma perché l'imprenditore che ha avuto questa idea mi ha cercato per entrare con veramente una piccolissima parte, ma non ho nessun ruolo all'interno della società, se non diciamo, quello all'inizio di averlo aiutato a trovare un direttore sportivo e un allenatore. Io vivo a Milano, non vivo negli Stati Uniti e veramente non ho nessun ruolo all'interno di questa società. Ricominciamo. Per quanto mi riguarda, io ho molta stima di Brocchi, che è persona assolutamente seria e anche molto capace nell'insegnamento soprattutto della tattica di gioco. Quindi se dovessimo procedere con la seconda ipotesi dei Milan italiano e giovane, sarebbe certamente Brocchi l'allenatore prescelto. Il fatto comunque di aver avuto 5 allenatori in 4 anni è una cosa che non è usuale per il Milan. Tra l'altro magari saranno poi bravissimi, io questo non lo posso dire adesso, ma 3 di questi erano esordienti. Mi sembra veramente una situazione abbastanza confusa. Ricominciamo. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Hai sentito Berlusconi, Maldini, geolocalizzati. Ho superato Parma, sto andando a... c'è molto traffico in Italia, informazioni di servizio, molto traffico, per chi non se ne fosse accorto, immagino che i nostri ascoltatori 800 24 00 24 vorranno intervenire anche dalle strade che sono piene di code. Senti, sono andato a Perugia al Festival del Calcio, sentito, poi sentiremo anche Roberto Renga. Sì, certo. Sì. Hai sentito Maldini, Berlusconi, la situazione incasinata del Milan? Beh sì, insomma, Maldini è stato sincero, onesto, ha detto quello che pensa, senza grandi diplomazie. Mi sembra che la diagnosi sia perfetta, sia possiamo curata. Dirla noi, Maldini e Galliani non si sono mai presi. No, ma questo lo sappiamo da anni. Così come possiamo anche dire che il motivo principale Maldini non lavora al Milan non è perché sia in America. No, l'America e Miami non c'entrano nulla. Io dico che tutti i tifosi del Milan vorrebbero vedere Maldini tornare in società, cosa che non accadrà mai. No, non lo so se non accadrà mai, perché in realtà ci sono anche, dovrebbe essere anche il futuro progetto. Maldini è una di quelle colonne, è uno di quegli ambasciatori, quindi è chiaro che avrebbe una grandissima suggestione un suo ritorno. È vero pure, e questa è una delle due grandi teorie che in questo caso mi sento di sposare, che non sempre ha una leggendaria carriera da giocatore poi corrisponde carriera da dirigente, anche in quei casi in cui la persona, e nel caso di Paolo Maldini, è senza alcun dubbio molto intelligente, molto acuta e molto capace. Come tu sai, nessun club è obbligato a garantire la pensione. Questo lo dico con Del Piero, il Milan con Maldini, esatto. Nessun club è obbligato a garantire la pensione alle sue bandiere. È giusto dirlo per non cadere nel populismo, no? È facile in un momento come questo dire con Maldini le cose che sarebbero cambiate, questo nessuno può saperlo, certamente nessuno questa possibilità che io sappia gliela pagata, nel senso che comunque le strade sono state divergenti e il resto è sotto gli occhi di tutti, sono anni difficili di basso impero, di un impero che è stato grandioso, perché con onestà va ricordato che quello che hanno vinto i tifosi del Milan negli ultimi 30 anni forse non l'ha vinto nessuno. Sì, nessuno... Forse il Barcellona, ecco. No, nessuno ha mai vinto quello che ha vinto il Milan in questi ultimi 30 anni, però nessuno ha mai sofferto, forse, quello che stanno soffrendo i tifosi milanesi. Milan e Inter. Il mondo è pieno di gente che soffre, di tifosi che soffrono. Il Milan sta vivendo degli anni complicati, sicuramente, ed è chiaro che la differenza fra il passato e il presente è enorme, stride e fa male, ma insomma, i tifosi della Juve quando sono stati retrocessi e poi si sono fatti certi tifosi hanno sofferto, i tifosi dell'Inter hanno sofferto per anni, i tifosi della Roma soffrono per troppi secondi posti, i tifosi della Lazio soffrono perché vorrebbero una squadra che si rafforza, i tifosi del Napoli aspettano lo scudetto ormai da più di 20 anni, quindi insomma alla fine... con tutto il rispetto per la sofferenza del Milan, che ripeto fa notizia perché si contrappone a un passato particolarmente glorioso, però insomma che ci possano essere 5-6 anni difficili, complicati nella storia di un club è una città, sì, insomma, è una realtà. Non è una vergogna in assoluto. L'importante sarebbe cambiare pagina, cioè rendersi conto, dotare un miglioramento. Questo mi sembra che più di sì, ma hai sentito Berlusconi? Cioè, vendo, però la realtà è che non vuole vendere. Sei d'accordo, certo, con me? La realtà è che ancora c'è una parte irrazionale, una parte sentimentale, una parte umanissima di Berlusconi che non vuole vendere. Questo mi pare abbastanza evidente. Oppure che vuole vendere, ma a patto di poter conservare un ruolo, ma a patto che questo ruolo non sia un ruolo solamente simbolico, quindi detto questo, insomma, io non ho certezze, non ho la certezza che l'Inter vendendo ai cinesi migliori, non ho la certezza che il Milan nell'eventuale cessione asiatica possa migliorare. Alessandro, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Pierluigi. Ciao, dove sei? Conferma Pierluigi che c'è un traffico assurdo. Sono partito alle 8:30 da Sesto San Giovanni, sono a Castel San Pietro Terme adesso. Beh, sì? Bene, no? Qui... Non ci credi? Non male. Dovrei arrivare a Milano Marittima, non so quando arriverò. Forse domani. Forse domani. Dimmi. Forse per la fine per del la ponte. Per la fine del ponte, Alessandro, dimmi. Per la fine del ponte, sì. Dai, va bene, dai, tanto è lungo. Dimmi. Devo farvi complimenti per la trasmissione e dire che secondo me Morata comunque andrà via. E sono convinto che settimana prossima il Real eserciterà il diritto di ricompra con la Juve. La Juve Morata ha già detto che ne ha abbastanza piene le scatole di questa recompra, di questa. Sì, ma tanto si sapeva anche 2 anni fa. Cioè, sai, il Real eserciterà il diritto di riscatto, lo venderà in Inghilterra, farà un sacco di soldi. E questa è la storia. Io penso che la Juve investirà i 30 milioni per prendere un altro attaccante. E non lo so, io sono convinto che anche Ibrahimovic stia pensando alla Juventus. Ibrahimovic secondo me va al Manchester United. Sì, allora io Ibrahimovic può andare in vari posti, la Juve secondo me è la squadra che ne ha meno bisogno. Detto questo, forse certo, anche la Juve non darebbe fastidio, ne ha meno bisogno perché la Juve è già di per sé una macchina abbastanza perfetta in questo momento. Ibrahimovic è una grande scorciatoia, un grande aggiustatore, no? È uno che ti può far fare con un giocatore solo un grande salto di qualità. La Juve, se non vede le squadre italiane, è quella che ne ha meno bisogno. C'è un'ipotesi, se non è legata al Milan, ma le incognite sono tantissime. Al Milan che cosa, Pier? Le dichiarazioni di Berlusconi l'altro giorno chiaramente lo smentiscono, però i rapporti sono rimasti molto buoni, non lo so, io non la sottovaluterei del tutto. Poi c'è una opzione... c'è l'opzione più da fantacalcio, non da buttare via, che può essere il Napoli in caso di partenza di Higuain. Insomma è divertente Ibra, sicuramente lo United con Mourinho è un'ipotesi accreditata. Secondo me è la più credibile, anche perché Mourinho non è stupido e quindi se lo porta lì e il campionato lo vince. Certamente non il City, ecco, non il City di Guardiola che invece ha preso il City di Guardiola ha preso Draxler. A proposito, Pierluigi, ci sei? Sì, sto qua. Ok, Dani Alves, Vertice sì. A Parigi, ma è già in parola con la Juventus. Dicono dal Brasile e dalla Spagna, dicono che ha già firmato praticamente, quindi può essere una clamorosa mutante, però insomma, non mi sorprenderebbe se fosse vero. Ed è un buon acquisto, che può dare ovviamente ancora spinta al progetto bianconero. È un'opportunità essenzialmente del giocatore, che non è più lo stesso di 2 anni fa, ma che può ancora dare molto, e può essere secondo me soprattutto una grande aggiunta di personalità e carisma a livello di Champions League, quindi per fare il salto, sì, di qualità, sì, in Europa. Sì, sono d'accordo. Anche perché Quadrado Tartura, no? Quindi i 4 esterni di grande livello che quest'anno Allegri ha spesso ruotato in maniera veramente quasi sistematica, è stato il turnover più sistematico che ha fatto, insomma ne serve almeno uno, e Dani Alves può essere una bella soluzione. Va bene, traffico, Luca da Roma subito dopo, Emiliano Mondonico che sta arrivando, ci fermiamo un attimo. Tutti convocati. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta. Convocati. Emiliano Mondonico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Fate il prossimo, prossimo CT della nazionale si è sposato. Bene. Bene, insomma, è giusto che si avventura? È no, giusto, so, che si avventura? Allora, prima diciamo se è giusto che si sia sposato. Meno male, penso che sia giusto. Uno trova la donna della sua vita, cioè chi la trova a 20 anni, chi la trova a 70, chi la trova a 90. Va e perciò quando trovi la donna della sua vita, è giusto, giusto che sia lui il CT della nazionale che verrà? Penso che Tavecchio guardi molto all'anzianità. Tavecchio, diciamo così, l'esperienza penso che sia la dote migliore che può avere uno in qualsiasi lavoro. E perciò è chiaro che chi meglio di Ventura in questo momento in Serie A dà questa esperienza, questa abilità nel spiegare le cose. Diciamo che sicuramente è l'uomo ad hoc per Tavecchio, poi dopo vedremo se lo sarà anche per la nazionale, però cioè non possiamo parlare di nazionale e non parlare di contropiede e Catenaccio, perché esatto, ho visto di contropiede sentito, Catenaccio, perché ho sentito ma tutti si sono andati a confessare dopo, perché dopo anni e anni che parlavano come voi prima di traffico in mezzo al campo, di sovrapposizioni, di qui che di là, eccoci che siamo tornati al Catenaccio e contropiede, o al contropiede Catenaccio, viene prima il Catenaccio, prima il contropiede, cos'è la conseguenza? È il Catenaccio e il contropiede, che bello, mi sembra di essere tornato ai miei tempi, e mi auguro che bene o male si torni alla marcatura uomo. Chi giochiamo la prima partita contro chi? Contro chi giochiamo la prima partita all'Italia? Non ridete, sto dicendo le cose serie. Catenaccio e contropiede Catenaccio, è nato prima l'uovo, la gallina. Uomo. Chiellini, mettiamolo contro il loro avversario più forte. Non gioca Chiellini e non gioca l'avversario più forte. Sai quanto ci guadagniamo? Sai quante volte nel passato si metteva proprio il Red Bull contro l'uomo, l'uomo più forte? Proprio, ma questo va fuori, questo va a cambiarsi i pantaloncini, vai fuori anche te e fai finta di cambiarci i cartelloncini. Cioè anche nell'intervallo non è che il marcatore deve andare nel suo spogliatoio, il marcatore deve mettersi fuori dalla porta dello spogliatoio dell'avversario, di modo che come esce, tac, lui lo segue, ed eccoci la marcatura. Vuoi vedere che torniamo alla marcatura uomo? Vuoi vedere che questo calcio del futuro non è altro che una coppia del calcio del Pierluigi Pardo, aiutami, aiutami. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'impostazione di Conte sia stata questa, e chiedo al mister se gli sono piaciute le convocazioni, se è d'accordo su Giorginio a casa, su Bonaventura a casa. Noi non siamo d'accordo, perché lasciare a casa Giorginio, lasciare a casa Bonaventura, secondo me è stata, non è stata una grande idea, posso dire. Ecco, in questo momento andiamo a fare la guerra. In questo momento non ci sono balle che tengono. Non andiamo a fare il calcio spettacolo, ma andiamo a fare il calcio per vincere. E se vinciamo col catenaccio, tutti a piedi a Caravaggio. Che sì, poi c'è sì, anche, però Emiliano, c'è anche, scusami, dimmi. Lasciare a casa Giorginio, che è il backup di Tiago Motta, di un playmaker che potrebbe tenere. Lasciare a casa Bonaventura, che comunque è un giocatore di talento. In quel centrocampo cosa abbiamo? In centrocampo abbiamo della qualità, cioè dove? Della quantità, scusate, della quantità. Se noi vediamo la partita dell'altro giorno, Candreva con Florenzi, Giaccherini con Darmian, Florenzi con un'ala destra vecchio stampo, come può essere Candreva, dall'altra parte Giaccherini con un terzino, perché è chiaro che Darmian è un terzino. Darmian potrebbe benissimo giocare terzino, adesso non merita dirmi che sì, è una sinistra. Certo. E per suo vicino gli mettiamo Giaccherini, che è uno che si inserisce, gli diamo libertà di inserimento, perciò è chiaro che le accoppiate in questo momento hanno questi riscontri, soprattutto sulla quantità. Soprattutto è chiaro che è una nazionale dove si parla la stessa lingua, giustamente voi mi dite Giorginio, però Giorginio, capisci, ha bisogno di avere intorno degli altri giocatori che parlano come lui. Sì, è chiaro che con Giorginio è stato uno dei migliori centrocampisti europei in questa stagione. Giorginio aveva bisogno accanto, non so, Bonaventura, ma allora andavamo sulla qualità, allora andavamo sul tacco e punta. Invece in questo momento andiamo sulla battaglia. Okay. Allora, io sono d'accordo, sono acceso. L'analisi è perfetta, il motivo è questo, non è la geopolitica, è assolutamente soltanto questo. E, devo dirti la verità, la scelta di, cioè il rifiuto a Bonaventura mi spiace molto, perché il giocatore mi piace, ma era assolutamente dell'aria e secondo me ci azzeccava poco con questa squadra. Giorginio comunque l'ha possiamo dire perché... Pier, che lui che Antonio Conte non li ha mai considerati questi giocatori, possiamo dire non ha mai considerato Giorginio, non ha mai considerato Bonaventura, non ha mai considerato questi giocatori, questi giocatori non li ha mai voluti. Chi metteresti in mondo con Pelé? Io giocherei con i tre. Io giocherei con Zaza e con Insigne. E Insigne non può fare da secondo punta. Insigne secondo me può giocare sulla fascia sinistra, Candreva sulla fascia destra. È chiaro che porto avanti un attimo Candreva, Pelé o chi per lui, perché dopo Immobile non può fare la seconda punta, è un'altra prima punta, Pelé è una prima punta, Immobile è una prima punta, cioè nessuno di questi è una seconda punta, che poi la seconda punta è un trequartista. Però cioè, Mondo, se giochi a tre davanti, sei in grado di fare il 3-4-3? Assolutamente sì. Cioè, tu immaginati i tre, Florenzi, Darmian e De Rossi. Davanti chiaramente hai il Sharabi da una parte, Insigne dall'altra, e Candreva da una parte, Insigne dall'altra. Però dovresti giocare a 4 dietro. No, perché? Gioco a 3 dietro, davanti, a destra Florenzi, in mezzo Marchisio, in mezzo Marchisio Thiago non c'è. Motta, Marchisio purtroppo non c'è. De Rossi, scusa. Mm-hmm. Io confondo Marchisio con De Rossi, perché sono un po' uno la bella coppia o la brutta coppia dell'altro. E perciò ecco perché li confondo. E perciò andrei a, tre, a questo 3-4-3 che diventerebbe in fase difensiva il 5-4-1, perché il catenaccio cos'è? Il 5-4-1, sì, sì, il contropiede cos'è? Avere 3 o 4 uomini in fase offensiva. Fammi sentire Luca. Luca da Roma. Buongiorno Luca. Luca. Luca. Luca. Pronti? Buongiorno. Pronto? Pronto? Vai Luca, vai, vai. Sì, ciao, ciao. Volevo, se è possibile, continuare a parlare di nazionale, visto come che no. C'è stato anche Emiliano Mondonico. Come no. Oggi è la festa della Repubblica e ci apprestiamo ad arrivare all'Europeo e io, da grande tifoso della nazionale, cosa insolita tra l'altro per un romanista, sono piuttosto depresso. Perché? Perché è cosa insolita per un perché romanista? Perché di solito, anche se voi sentite le radio romane, eccetera, o anche se vivete un po' l'ambiente di Roma, il romanista tipico non è molto interessato alla nazionale. Cioè, casomai è interessato ai giocatori della Roma in nazionale. È vero, Pierluigi Pardo? Beh sì, sicuramente la Roma, la Fiorentina, anche un po' il Napoli, secondo me, hanno un po' quest'anima, sì, questa... Sono squadre totalizzanti, per cui poi alla fine la nazionale, sono abbastanza d'accordo con lo viene sportatore. Dopo, viene dopo. Diventa già a Pizzolo, a Riscone di Prunico, a quello che è. Prego Luca. Ecco, diciamo, è sotto gli occhi di tutti, voi in primis, che purtroppo questa nazionale, e poi per carità potrà anche fare bene, ma si presenta come forse l'edizione più debole nella storia della nostra gloriosa federazione. Ora, questo lo sanno tutti, ma nessuno, secondo me, un po' per interesse, un po' per mancanza di interesse, si interroga sul perché. Io, diciamo, in questi ultimi 2-3 anni ci ho provato e la prima risposta veramente ovvia e la palissiana è che nel campionato italiano ci sono il 70% di stranieri, sì. La maggior parte di questi, perdonatevi il francesismo romano, sono delle pippe. Sì. E nonostante questo vengono preferiti. Non è che in Inghilterra, in Francia o in Germania ce ne siano di meno, Se mi permetti, con l'esclusione dell'Inghilterra, se mi permetti, le percentuali sono più basse. Non si può, la Spagna comunque ha stranieri molto forti, cioè diciamo riescono a prendere il top, sono come eravamo noi negli anni 90, primi anni 2000. Noi adesso ci troviamo alla periferia dell'impero con le grandi squadre che credono di accorciare la strada verso la grandezza prendendo gli scarti delle grandi squadre europee, tipo la Roma con Dzeko, il Milan con Fernando Torres, ti posso fare un miliardo di nomi, e nessuno investe più sui calciatori italiani, e per non parlare dei settori giovanili, ieri c'è stato... Questa l'abbiamo già sentita. Questa, Roma. Luca, questa l'abbiamo già sentita. Emiliano Mondoni, cosa dici? No, io non sono d'accordo sul fatto degli italiani. Io penso che l'unica volta che ho visto gli italiani tutti con la bandiera tricolore è stata la vittoria dei mondiali di calcio. E perciò... eravamo impossibile che a Roma non ci fossero in giro tutti i ragazzi con le bandiere tricolori in mano. Sì, vediamo. Perché è chiaro, abbiamo vinto i mondiali e perciò in questo momento la nazionale non interessa. Diciamo che la nazionale siamo tutti curiosi, fanno sempre il record di ascolti e se dovessimo vincere andiamo tutti in giro con la bandiera, con la bandiera, con la bandiera tricolore. Quando giudichiamo questa nazionale... Io sono sempre stato dell'idea che allora quelli bravi giocano a prescindere dal passaporto, quelli scarsi non giocano, cioè al massimo livello professionale possibile, quelli bravi giocano, quelli scarsi non giocano, ok? E quindi se abbiamo dei giocatori italiani che non sono in grado di giocare in Serie A, vadano a giocare da un'altra parte, vadano a giocare in Lussemburgo, facciano la valigia di cartone e vadano a giocare da un'altra parte, perché secondo me al massimo livello professionale possibile giocano quelli bravi. Scusate, abbiamo visto la finale della Champions, abbiamo visto Real Madrid Atletico Madrid, abbiamo visto il Real Madrid giocare come l'Atletico Madrid, sì, sicuramente certo, non certo, c'è stata qualità, certo, c'è stata certo. Partita. E allora che cosa ci inventiamo? Se la finale della Coppa Campioni vede in campo due squadre che fanno soprattutto della quantità una loro prerogativa, perché non ditemi che hanno fatto il calcio spettacolo, hanno fatto il tiki-taka o hanno fatto tutte quelle cavolate lì. Diciamo che hanno fatto uno contro uno a tutto campo, finale certo, di Champions, certo, con due squadre certo. Spagnole, cioè del calcio del futuro, dove acquistano Bale a 100 milioni, Cristiano Ronaldo a 8 miliardi, mm-hmm. Messi a 12 miliardi, ecco che siamo arrivati al dunque, cioè alla quantità. E siccome nessuno è così somaro da non accorgersi, è chiaro che noi abbiamo fatto una nazionale sulla quantità, perché in questo momento il calcio sta tornando alla quantità. È finita la qualità, è finita il titi che ti to. Una volta questo si chiamava manfrina, adesso mm-hmm. si chiama possesso di palla. Ma per vincere le partite devi avere quantità, devi fare quantità, altrimenti vincono gli altri. E siccome l'importante è il risultato, io penso che Conte abbia fatto bene a fare una nazionale di quantità, e perciò chiaramente vedremo un po'. Questo lo scopriremo vivendo, Mondo. Questo lo scopriremo vivendo, se ha fatto bene a fare un nazionale di ma ha fatto bene, ma no, non è giusto che dopo, io l'avevo detto, no, bisogna dirlo prima, no, se okay. c'è qualcosa che non va bisogna dirlo prima, però in questo momento l'abbiamo detto anche, ecco. Anche ai mondiali, quando eravamo tutti convinti di andare sì, là e di spaccare il mondo. Ai mondiali è chiaro che c'è stato, però in questo momento penso che chiaramente, quando diciamo non ha convocato Jorginho, non ha convocato Bonaventura, perché parlano un'altra lingua. Questi 23 più le tre riserve parlano tutti la stessa lingua, parlano tutti di quantità. Non c'è nessuno che al limite può andare in campo e cercare la fantasia, cercare l'estro. Giù la testa e pedalare, hai capito? Poi lo scopriamo. Avete voluto bicicletta, pedalate. Grazie Mondo. Grazie a voi, sempre ciao, viva ciao. Il catenaccio e contropiede. Catenaccio e contropiede tutta la vita. E io ho vinto a San Siro e mi ha mandato via. Me lo ricordo. Quando hai detto è come vincere il Festival di Sanremo, io non me lo dimenticherò mai. Non me lo dimenticherò mai quando hai vinto col Novara a San Siro. Che spettacolo. Va bene, grazie. Ciao, grazie mondo. Ragazzi. Sposiamo catenaccio e contropiede. Ci fermiamo. Ma soprattutto se avete bestemmiato, andate a confessarvi. 800 24 0024, torniamo subito. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Luigi Pardo, senti questo messaggio. Gabbiadini, Balotelli, Totti, Pavoletti, Insigne e Immobile, questi dovevano essere gli attaccanti, altro che Pellè e Eder, poca qualità. Sì, ma allora Gabbiadini, sono tutte storie diverse. Gabbiadini ha fatto una scelta, è rimasto incastrato, impantanato dietro a Higuaín. Sì. A me Gabbiadini piace da impazzire, lo sai, anche, ho detto mille volte, anche a me. Ma ha anche fatto bene, perché è rimasto al Napoli per cercare di vincere lo scudetto. Sì, perché però ha giocato veramente, si è sacrificato, ha giocato veramente pochissimi minuti, secondo me non ha fatto bene, facendo i conti alla fine della stagione, secondo me non ha fatto bene. E questo per quanto riguarda Gabbiadini. Su Totti il discorso l'abbiamo fatto mille volte, abbiamo fatto mille volte. Ci sono e sono rispettivamente Immobile, credo la riserva di Pellè. Ragazzi, Pellè è comunque un giocatore che sta dando buoni risultati. Su Pavoletti io non sono d'accordo, cioè Pavoletti ha giocato una buona stagione nel Genoa, anche crescendo. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo chiedere una domanda, facendo una riflessione a monte. Perché ho sentito prima tutto quello che ha detto Mondonico e sono perfettamente d'accordo, nel senso che... Su cosa? Catenaccio e contropiede? Il catenaccio e contropiede ha funzionato per l'Italia per anni sostanzialmente, però con una caratteristica. Cioè, davanti le squadre forti e anche la nazionale aveva dei fenomeni. Bruno Conti, Paolo Rossi e così via. Cioè, dietro magari c'erano degli scalponi, penso ai tempi degli anni 70 con Benetti... Però davanti c'erano dei fuoriclasse oggettivamente. Quest'anno forse è la prima nazionale priva assolutamente di fuoriclasse della storia. ottimi giocatori, secondo me, tutti quanti, però non ci sono fuori classe. Allora, la domanda che volevo fare anche a Pierluigi Pardo è questa. Secondo voi, posto che effettivamente tutte le squadre di vertice del campionato italiano, a parte la Juve in parte, nel senso che Zaza ha fatto tanta panchina, non hanno centravanti italiani, come si fa a far crescere dei giocatori italiani forti, farli diventare dei fuori classe, se non li si fa giocare e se non gli si permette neanche di essere, diciamo, io ripeto, quelli bravi giocano, quelli scarsi meno, no? Sì, è un fatto generazionale, cioè noi oggi è un fatto generazionale, certo. Sicuramente certo. In difficoltà, insomma, Girardino 10 anni fa era un attaccante della nazionale, oggi è un attaccante del giro della stagione un po' invecchiato rispetto appunto, a 10 anni fa. Luca Toni ha appena finito una carriera gloriosa, cioè noi stiamo veniamo dopo quella generazione lì, siamo dal punto di vista offensivo in una terra di mezzo, abbiamo, ripeto, secondo me dei giovani molto interessanti come attaccanti esterni, perché il Sharawi si sta ritrovando finalmente, sì. Bernardeschi sta esplodendo, Insigne secondo me è stato il miglior attaccante italiano quest'anno, l'abbiamo detto un sacco di volte, quindi, è stato il miglior giocatore del campionato, il miglior giocatore italiano del campionato in questa stagione. Quindi insomma non è che siamo, ci manca la punta centrale, sicuramente per un paese che ne ha avute di straordinarie negli anni. Senti Pierluigi, questo... mettiamoci in carico da 90. Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'avresti portato Totti in nazionale? Sì. Sì, l'avrei portato perché in questa squadra che è quella che è, adesso sentivo no, il dibattito con Pierluigi e con un'altra voce che non ho riconosciuto, io ho una mia teoria, ma non importa in questo momento, dico sicuramente a questa squadra manca qualità, per cui Bonaventura per esempio l'avrei portato, e Insigne sono contento che ci sia, anche se non so se giocherà, e Totti l'avrei portato, proprio per la qualità, perché comunque a 20 minuti, mezz'ora dalla fine... pensate uno che ti sa tirare la punizione adesso che non c'è Pirlo, uno che sarebbe ti stata un però una scelta controcorrente per uno come Antonio Conte, sì, ma c'è anche da dire che lui probabilmente non sarebbe venuto, perché vi ricorderete che lui nel 2006 dette addio alla nazionale, perché proprio tutti si erano dimenticati che lui giocava con una gamba soltanto, certo. E ci furono dei giornali che scrissero cose terrificanti, io me ne ricordo un titolo, dice un calciatore in carrozzina. Insomma, lui è ovvio, poverino, non aveva la gamba sinistra, non aveva sensibilità, eppure fece dei discreti mondiali e disse addio, per cui non sarebbe rientrato. Però dico che anche a livello di effetto, no? Bravo Roberto, bravo, esatto. L'entusiasmo l'avrebbe dato. Esatto, io sono d'accordo su questo. A livello di effetti speciali, Totti in nazionale magari per l'ultima volta per poi dire addio al calcio, sarebbe stato qualcosa di rivoluzionario. Allora, sarebbe stato qualcosa di divertente dal punto di vista mediatico, di incoraggiante dal punto di vista appunto della percezione nel paese, sicuramente tutti noi con Totti in squadra o comunque con un talento di quelle caratteristiche in squadra in una nazionale abbastanza priva di talento ci saremmo sentiti certamente più protetti. Credo che onestamente però insomma non fosse la scelta, Conte ha fatto un discorso, l'ha impostato negli anni. Ma l'idea... perché no Pier? Perché? Ma perché secondo me lo metti lì per fargli giocare per l'ultimo quarto d'ora, cioè... Lo metti lì per far giocare l'ultimo quarto d'ora e magari ti risolve le partite. Cioè, alla fine l'europeo come il mondiale è un torneo notturno, no? Sì, la sarà notturno, un torneo breve, lo so, ma anche tanto mancherà sempre la controprova, quindi poi è difficile. Però insomma, secondo me il segnale al gruppo non sarebbe stato straordinario. Questo comunque è un gruppo che in 2 anni è cresciuto, ha fatto delle cose, le ha fatte tutti insieme, insomma, non lo so, è chiaro che la tentazione c'è, però è molto mediatica, molto romantica, molto letteraria più che tecnica, secondo me. Sì, stiamo facendo anche poesia, è vero. Secondo me ci sono dei pro e dei contro, cioè, perché Pierluigi c'ha ragione, che segnale sarebbe il gruppo? Però io potrei dire, porca miseria, è un gruppo senza leader, magari gliene arriva uno. Quello che penso anch'io. Oppure, per esempio, ci sono quello che penso anch'io, Roberto. Quello che penso anch'io, cioè è un gruppo senza leader. Vedevo parlare De Rossi un secondo fa su Sky. Meno male che Conte sia deciso a convocare De Rossi, perché questo è un gruppo senza qualità e senza leadership. È vero. ma per esempio dice l'ultimo quarto d'ora può essere offensivo. Sì, poteva essere offensivo, però in campionato. E ricordiamoci che se la Roma ha la speranza ancora, non dico la certezza, ma insomma quasi, di andare in Champions League, il prossimo anno lo deve a questo ragazzo che è entrato e ha risolto tutte le partite. Secondo me ci potrebbero essere anche, allora, i motivi, quelli di effetti speciali, lo dicevo, quelli di poesia e romantici, li sappiamo tutti, ma anche dei motivi tecnici. Però stiamo parlando di una cosa, ovviamente, che non si è verificata comunque. Allora, ci fermiamo un attimo per il traffico, poi c'è Antonello da Parma, 800240024, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Serata bellissima, non potevo chiedere di più, o meglio, c'è solo la conclusione migliore che ora tocca a noi, ecco, tutti insieme per riprenderci, ecco, quello che l'anno scorso purtroppo ci è sfuggito. Attacca ancora il Pescara, attenzione a Verde che prova a liberarsi per il tiro, salta due avversari, va in porta, rete! Ancora Pescara, l'esultanza di tutto lo stadio e della panchina. Se non andiamo in Serie A non abbiamo fatto niente. Sì, abbiamo fatto una bella annata, abbiamo fatto divertire il pubblico, noi ci siamo divertiti, però poi alla fine rimane poco. Allora, Pierluigi Pardo e Roberto Renga, una domanda a testa per Massimo Oddo che è collegato con noi. Yeah. Perché non vieni oggi? Ciao. Perché non puoi venire oggi? La domanda è facile. Perché non puoi venire oggi, da oggi fino al 5, al Festival del Calcio a Perugia? Perché la risposta è facile, Massimo. Perché? Perché abbiamo le ultime due qualcosa da fare? Della stagione abbastanza importanti, dai. Abbastanza importanti, sì. Roberto? No, va bene, questa gliela potevo fare anch'io perché stiamo aspettando Pierluigi a Perugia. Sì. Arrivo. Sì. Io credo che Oddo abbia qualcosina da fare. Però no? Ecco, anche Oddo penso che abbia cose più importanti rispetto a me e a Pierluigi da fare. E no, gli volevo dire, uno, da chi ha ripreso, perché le sue squadre giocano benissimo, ci sono dei movimenti zemaniani, ma lui sta molto più attento alla fase difensiva. Mm. E due, attenzione perché... E Cosmi, io lo conosco bene, è un perugino, l'ho visto nascere come allenatore, e certo che la fase difensiva non la fa bene, la fa benissimo. Cioè, avversario peggiore non gli poteva capitare, secondo me. Massimo, sei zemaniano? No. Ha ragione Roberto Renga? No, tant'è che non giochiamo neanche... Esatto. Stiamo adottando un modulo diverso dal 4-3, sempre con tre punte, ma i trequartisti sono stretti, non sono larghi. Abbastanza diverso come tipo di gioco. Non mi ispiro a nessuno, nel senso che tutto quello che sta avvenendo è frutto della poca esperienza che ho avuto, dei tanti allenatori che ho avuto, ho messo assieme le mie idee. Chi di per calcio. Esempio? Chi per esempio? No, ma nessuno in particolare. Io ho iniziato tre anni fa con una squadra allievi, e mi sono sperimentato e sono arrivato a questo punto con frutto di quello che ho fatto sul campo. Poi è ovvio che ho cercato di prendere da tutti gli allenatori i lati positivi e negativi per evitare gli errori e prendere i lati positivi per cercare di sviluppare una mia filosofia di gioco. Tutto qua. Sei soddisfatto, Roberto Renga? Ha anche imparato bene. Io da quando l'ho visto, devo dire, con grande attenzione, no? Perché Oddo, ricordiamolo, è uno dei campioni del mondo del 2006, certo, quindi certo, io lo considero ancora per tutta la vita un giocatore mio, ovviamente, e dico, quindi l'ho seguito con grande attenzione. Io mi sono sempre divertito a vedere giocare le sue squadre, sia quando Caprari giocava largo, sia adesso che gioca più stretto, e devo dire che la Padula è chiaramente bravo, ma probabilmente è molto bravo perché lo utilizza bene anche Oddo. Quanto è bravo Massimo? Ma diciamo che perché se ne parla squadra, tanto, No, ma in questa squadra ci sono veramente tanti giocatori bravi. La Padula, diciamo che la punta di diamante a servizio del gruppo, perché nelle mie teorie, nella mia convinzione, c'è comunque alla base un gruppo che i singoli si mettono a disposizione del gruppo. Ovvio che se non hai un impianto di gioco, una filosofia ben precisa, poi anche i singoli fanno più fatica. Lui è la ciliegina sulla torta, è un giocatore di chiara categoria superiore che lo sta dimostrando e ce lo teniamo stretto per queste due partite. Poi sì, poi vediamo, è Pierluigi. Poi vediamo dove va. No, non lo so, non so dove andrà, sicuramente andrà in Serie A. Questo l'avevamo capito. Magari se vanno insieme, fai grattaccio pallarum, omnia mala fugat, come dicono i latini. Senti, te l'aspettavi Maldini dire quelle cose? Insomma, i due amministratori delegati non funzionano, è assurdo che ci siano stati 5 allenatori, tra cui molti debuttanti in questi 4 anni, 3 debuttanti in questi 4 anni. E, insomma, se fossi Berlusconi o se fossi cinese o non lo so chi prenderà il controllo della società, che faresti? Ma il fatto che non ci sia mai stato un feeling particolare tra Maldini e l'attuale società, questo si è sempre capito questo sin dall'inizio. Ma diciamo che da un po' di tempo che al Milan non c'è questa situazioni di lia che per fare calcio, perché ovviamente io credo che alla base di tutto c'è sempre una società solida, alla base delle vittorie, dei progressi che ogni società fa c'è sempre una base di società solida, ad esempio per tutti alla Juve. In questo momento c'è un pochino di confusione, non si sa più chi comanda l'area tecnica, chi quella manageriale e quant'altro, quindi finché non si mettono a posto queste cose sarà un po' più difficile ripartire bene. Sarà dura mettere a posto queste cose in tempi brevi. E ovviamente pagano anche giocatori e allenatori. Giocatori e allenatori, certo, che vengono bruciati ad ogni stagione. Come si affronta il Trapani? Ma noi abbiamo la nostra filosofia, che è quella sulla base di con la quale abbiamo costruito questo anno, che è quella di cercare di imporre sempre il nostro gioco, di fare la partita, di essere aggressivi, di metterla su intensità. Queste sono le nostre caratteristiche basilari e finché ce lo consente la squadra avversaria lo facciamo. A volte c'è bisogno, e sotto questo punto di vista questa squadra è maturata, c'è bisogno anche di soffrire e facciamo anche quello, però noi affronteremo entrambe le partite per cercare di fare quello che sappiamo fare, cioè cercare di fare la partita. Massimo, ti saluto con un messaggio che mi arriva 349-238-6666, Oddo al Milan. Non so se è se sia un augurio oppure no, però lo manda un ascoltatore, quindi te lo giro così. Grazie Massimo, in bocca al lupo. Ciao. Con Pierluigi Pardo e Roberto Renga sentiamo Antonello da Parma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, salve, grazie di avermi chiamato. Sì, due minuti, cercavo di rispondere. Due sono tanti, dica. Grazie. Mondonico diceva catenaccio contropiede, secondo me ci vogliono delle teste pensanti in mezzo al campo, perché comunque una volta sentì Lippi dire nel 2006 contro la Germania, dopo la Germania disse... aveva una difesa di ferro, Materazzi, Cannavaro, Nesta, Buffon, sapevo che non passava nessuno di lì, mise dentro. Sì, non è che questa difesa sia così scarsa, Anzi, se c'è un reparto che ci teniamo stretto è proprio quello difensivo. Lascio la risposta a Pardo e a Renga. No, è la nostra unica certezza, o comunque la principale. Abbi quindi pazienza, sì. Lì non siamo molto, secondo me, dai livelli del 2006. Negli altri reparti sì, però insomma mi sembra che Mondonico abbia dettato la linea, nel senso che poi è quello, e le scelte, la scelta di Sturaro, cioè di un altro giocatore di inserimento e di corsa rispetto a un ragionatore come Jorginho, come Bonaventura, va proprio in questa direzione qui. È una squadra di lotta, bisogna passare il girone poi secondo me saremo un osso duro per tutti, poi è ovvio che come valore assoluto in una competizione strutturata diversamente, in un girone unico fra le 20 migliori squadre d'Europa o 24 migliori squadre d'Europa, arriveremo ottavi, noni, questo non c'è dubbio, forse noi arriveremo a metà classifica. Però è una competizione diversa e siamo per tanti aspetti, per esperienza, abitudine soprattutto del reparto difensivo e sì, acume sì, tattico, e secondo me anche per l'allenatore che è molto bravo. Diciamo che saremo un osso duro per chi ci affronterà. Esatto. Ciao Pier, sentiamo domani. Perugia, tutti a Perugia. Ciao Roberto. Ragazzi, che t'aspetto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ci fermiamo per il GR, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Tra poco seguiremo tutto. Prima però spot per noi. Tutti convocati. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Tutti convocati. Bene, torniamo, solleviamoci un po' l'umore. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io sono così diversamente giovane da ricordarmi la staffetta Mazzola-Rivera. Vabbè. E quindi il caso Totti potrebbe essere risolutore, prima per l'assenza di leadership di uomini che abbiamo in questa nazionale. Beh, ormai abbiamo capito che comunque agli europei non ci va, no? Purtroppo. Cioè, va bene, possiamo rimembrare... Carlo, possiamo rimembrare, però Totti agli europei non ci va e quindi inutile pensare. Io l'avrei convocato, l'avrei portato perché in questa nazionale senza leadership, in questa nazionale con pochissimo talento, io Francesco Totti l'avrei portato, però sappiamo perfettamente come sarebbe stato controcorrente, sarebbe stato in qualche modo rivoluzionario, vero Luca Marchetti da Sky? Ciao, buon pomeriggio. Avremmo avuto però una belle spalle su cui mettere il 10, dai, mettiamola così. Sì, che non fosse Thiago Motta, Esatto, vista la polemica di ieri. Sì, senti Luca, Dani Alves dove va? Alla Juve. Sì, Paris Saint-Germain ha detto ci siamo visti, però fa niente. Ma io credo che quando un dirigente molto attento e parco nelle sue dichiarazioni come Marotta si sbilanci e dici stiamo trattando per un giocatore come Dani Alves, non ti dico che già l'ha in tasca, poco ci manca. Oggi sono arrivate anche le dichiarazioni dei dirigenti del Barcellona, per cui è stato di fatto ufficializzato l'addio fra Dani Alves e il Barça. Quindi destinazione bianconera. Mentre mi sento di sbilanciarmi. Mentre Mascherano costa troppo. Mascherano al momento costa troppo. Io credo che rimanga un obiettivo della Juventus. Qui non c'è la fretta e non c'è il tic tac dell'orologio, per cui entro il 5 giugno non bisogna decidere nulla. Si fa una trattativa. Se la Juventus continua a decidere che i 20 milioni che più o meno che chiede il Barcellona sono troppi, allora l'affare non si fa. Certo, è un giocatore che ti può dare non soltanto un bagaglio tecnico assolutamente straordinario, ma un livello di esperienza e di garra, certo, per la conquista della Champions non indifferente. Ti metteresti in casa due che insomma sanno come si vince, ecco. Sì, oltre sì, a quelli che già hai. Qualcosa ci capiscono in questo. Leggo Pjanic al Barcellona, corretto o sbagliato? Ci può stare perché è un giocatore da Barcellona, perché è un giocatore che il Barcellona sta seguendo da moltissimo tempo. La Roma la propria strategia l'ha già delineata. Ma non doveva andare alla Juventus? Io sulla Juventus e Pjanic, se ti ricordi, non sono mai stato così ottimista, perché sì, la Roma vuole che venga pagata la clausola. La Juventus non avrebbe intenzione di pagare la clausola, il Barcellona può permettersi di pagare la clausola. Quindi non ci sarebbe neanche bisogno di fare la trattativa con la Roma. Se io sono il Barcellona, vado da Pjanic, gli dico questo è il tuo contratto, ti piace sì o no, poi vado alla Roma e gli porto l'assegno da 38. con la Juventus i tempi si dilatano un po'. Poi bisognerà capire anche la Roma quello che ha intenzione di fare. È vero che la clausola ti pone nella situazione in cui non sei tu a decidere, perché se c'è qualcuno che ti paga i 38, bon, decide il giocatore. Però in questo momento le intenzioni della Roma non sarebbero quelle di vendere né Pjanic né Nainggolan, ma tentare questa famosa mossa della coda del gatto maculato. E tu ci credi? Credo che la Roma stia Credi che la Roma farlo. Possa permettersi di tenere 2-2? Credo che la Roma possa permettersi di? Di tenere sia Pjanic che Nainggolan. Sì, tecnicamente può farlo. Bisogna vedere se riesce entro il 30 giugno a vendere Rudiger e qualcun altro di quelli in supero. Vabbè, questo non lo è facile, non è per niente facile. No, lo scopriremo vivendo. La Juventus cosa fa? Se non prende Pjanic, se non Pjanic, abbiamo se detto non... Dani Alves, e poi cosa fa per provare a vincere in Europa? Sicuramente, un centrocampista sicuramente, perché è il grande obiettivo della Juve. I tre nomi che sono sul tavolino in questo momento sono Pjanic, Andre Gomes e Kovacic, che fra i tre in questo momento, almeno a mio parere, è quello più raggiungibile. Con il Real ti devi mettere a tavolino per parlare di Morata. Beh, Morata va via, no? Morata va via, ha già detto io sono anche stufo di questa storia della recompra eccetera. Diciamo che questo destino è scritto, cioè Morata verrà riscattato dal Real Madrid e andrà in Inghilterra e non rimane al Real. Esatto. E io credo che allo stesso tavolino una chiacchierata su Kovacic si possa fare. Fondamentalmente è un giocatore che può giocare almeno due ruoli nel centrocampo di Allegri, può fare il trequartista, può fare l'interno. Chissà che poi Allegri non se lo inventi anche regista se dovesse averne bisogno. È giovane, è forte, l'Inter l'ha dovuto sacrificare per ragioni di bilancio, ma per 35 milioni di euro l'avremmo fatto tutti. Scusa, per curiosità, cosa fa l'Inter? Questo devi chiederlo a Bennato, secondo me, più che a me. Non ho ancora, sto studiando il cinese, ma ancora non, ma guarda, io non ci arrivo. Cose, io ho letto molte cose interessanti oggi riguardo a quelle che possono essere le manovre dell'Inter sul mercato per i prossimi mesi, dato per scontato che entrerà il gruppo Suning. Ci sono dei paletti del fair play da tenere in considerazione nella maniera più assoluta, perché valgono per tutti, valgono per l'Inter, valgono per il Paris Saint Germain, valgono per il Manchester City, ma non a caso ho citato questi, ci sono delle possibilità che ha l'Inter cinese per poter in qualche modo forzare questi paletti. Senti, per curiosità, per cui, cosa fa il Milan? Visto che siamo al 2 di giugno, è festa e non ci ascolta nessuno, cosa fa il Milan? No, possiamo aspettare il 16? Sarò più chiaro, possiamo aspettare il 6. No, dipende, me lo devi dire adesso. Dipende se Berlusconi ha veramente voglia di vendere non, o non no. Non ha voglia di vendere, tu lo sai perfettamente. Dipende da questo. Ma io guardo, ormai con Berlusconi la mano sul fuoco non la metto su nulla, perché qualsiasi previsione che facciamo noi, che determina magari un ragionamento logico, potrebbe non avere assolutamente alcun tipo di conseguenza invece nei ragionamenti che fa Berlusconi. Qui c'entra il cuore, c'entra la volontà, c'entra la voglia. Intanto i dirigenti Fininvest stanno trattando con questi cinesi non meglio identificati. Quali non si sa bene. Esatto. Quali se il 14 giugno Berlusconi decide, va bene, guardate, vi ringrazio per il vostro lavoro, siete pagati per fare questo, però io non ho intenzione di vendere. Ciao a tutti. Esatto. Senti, è già successo. Senti Luca, andiamo un attimo all'estero. Primo regalo per Guardiola, Gundogan. Gundogan, sì. Ex quanti ne arriveranno? 265 milioni? Ne arriveranno quando sposi Guardiola, sposi un progetto tecnico-tattico non indifferente. Poi vediamo se vinci la Champions, perché negli ultimi anni non mi è sembrato. No, però è sempre arrivato lì. Secondo me se arrivi fino in fondo, fino alle ultime quattro, poi dipende molto anche dal caso. Il caso può fare in modo che tu lo vinca, il caso può fare in modo che tu lo perda. L'Atletico Madrid è andato a un rigore dalla vittoria, un palo dalla vittoria. Quindi abbracciare però un certo tipo di progetto significa investire, e questo per il Manchester City non comporta alcun tipo di problema, però avvicinarsi molto. Cioè, se il Manchester City dovesse arrivare in semifinale, comunque sarebbe un record assolutamente storico per la squadra inglese. Sì. E comunque avresti la possibilità di giocartela, sei fra le prime quattro. Poi se incontri il Real Madrid o il Bayern Monaco hai avuto un po' di sfiga, se incontri la sorpresa no. Certo, Conte che ha chiesto? Il primo di Conte in difesa, il primo di Conte in difesa ci risulta che sia Manolas, che la Roma non vorrebbe dare, che quindi diciamo propone Rudiger, che non è esattamente l'ultimo arrivato. Non è esattamente la stessa cosa. Non è la stessa cosa, infatti costa la metà, più o meno. Conte si porterà anche un altro giocatore esterno, si parla anche di Candreva, ultimamente è ritornato fuori il nome. Io credo, sinceramente, con tutto rispetto per Candreva, che la capacità di spesa del Chelsea sia nettamente superiore e che quindi si possa andare su giocatori di altissimo profilo. Considerando che questo soprattutto all'inizio sarà nel mercato dei difensori centrali, considerando che la Juventus Bonucci non lo vuole dar via, io mi aspetto delle cifre folli per giocatori normali. Sì, sì, come ho visto i 45 per giocatori di medio livello, come abbiamo visto l'anno scorso, no? Esatto, esatto, al Manchester City. Esatto. Quindi, dimmi un'ultima cosa, leggo anche Lewandowski Real Madrid, secondo AS, firmato questo precontratto, Lewandowski si muove oppure no? Ma si dice da tantissimo tempo, quindi io almeno come interesse do credito e come, anche perché qualcosa il Real Madrid dovrà fare. Lewandowski non è il classico colpo da Real, non è quello che ti accende la fantasia, non è un numero 10, generalmente il Real compra solo numeri 10, però è tanto tempo che si dice, ed è tanto tempo che si dice che il Bayern Monaco via Lewandowski deve prendere un grande attaccante e sta guardando in Italia. E naturalmente il nome è quello di Higuain. Arrivano smentite da tutte le parti. Io il campanello d'allarme, sai quando ti arriva l'alert sul telefonino e ti ricordare una cosa, ecco. Ma posso io me lo cosa? Tengo sempre lì. Ma posso perché... dirti una cosa, secondo me Higuain si muove. Adesso se ci ascolta De Laurentiis ci chiama e ci, ci manda delle querele, però secondo me Higuain si muove. Io non ne sono sicuro perché conoscendo non sarebbe neanche una brutta idea, posso dirti. No, dipende sempre dalla cifra. Esatto. Devi tener conto di quello che hai detto finora, però, se ti chiami De Laurentiis, che si sarebbe mosso soltanto per i soldi della clausola. E quindi quelli più o meno, magari poco meno, perché più è difficile, devono arrivare. E questo non significherebbe, secondo me, in assoluto un depauperamento del Napoli, perché poi con 90 milioni di euro giù di lì, ma infatti, insomma, fa il mercato, certamente. Poi non... Il vero problema del Napoli, consentimi Carlo, è come finora è stata strutturata la società, un problema per modo di dire. Con il discorso dei diritti d'immagine, a totale gestione della società, fai difficoltà a prendere dei grandissimi campioni. Sì. E l'ultimo gradino che deve superare il Napoli per arrivare al livello del top club europeo è comprare questi grandissimi campioni. Sai, questi fanno fatica a venire da te e dirti va bene, lo stipendio me lo dai te, però i diritti d'immagine te li gestisco io, eccetera eccetera. Ma questo è il gradino più difficile che deve superare il Napoli. È una storia che abbiamo imparato anche per giocatori di minor livello rispetto a Higuain e a questi top player qua. Grazie Luca. A te. Ti abbraccio. Grazie Luca Marchetti da Sky. Ciao. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere stato convocato. Grazie a lei, dica. Allora, parlando poi di De Laurentiis, io penso che non lo cederà mai Higuain se non pagheranno la clausola, perché effettivamente è assurdo pensarlo per un tifoso napoletano. Poi volevo parlare di Conte, se possibile. Come no? Del fatto che non abbia convocato Jorginho per me è assurdo e... Sì, lo è un po' anche per me, posso dire. Ecco, sono contentissimo che uno come lei... No, non è questione di essere contenti o non contenti. A me sorprende che non abbia convocato un giocatore. Ma d'altra parte, lei sa benissimo come Jorginho, Bonaventura, Totti, questi giocatori non siano mai stati realmente considerati da Antonio Conte. Quindi... Non è una sorpresa così assoluta, Antonio. Non ho capito bene se che significa che un giocatore lo sappia fare e un altro no. Io penso che Jorginho sappia giocare sia in verticale sia in orizzontale. Non a caso uno dei migliori centrocampisti d'Europa in questa stagione, e lo dicono i numeri, no? Lo dicono le statistiche anche, quindi. Però Conte ha deciso così, non c'è Verratti, si va senza playmaker e, come diceva Emiliano Mondonico, catenaccio e contropiede. Sentiamo subito dopo il traffico, 800240024, numero verde. Blocco proprio di Channing Frye, cambia l'angolo, LeBron questa volta si accontenta, e vabbè, allora però sparacchiamo e andare, via e andare, via. Ribalta per Curry che attacca ancora, trova separazione per un attimo, si butta indietro, splash! Adesso sì che è davvero tornato Stephen Curry. Stephen Curry, figlia di LeBron, strafesti della vedova, Shumpert tra rimette per terra, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, stupendi, vola Cleveland, vola! A 6 aperto dietro la schiena, Curry appoggia al vetro, state tutti qui, il più grande spettacolo del mondo, il più grande spettacolo del mondo. Allora, l'abbiamo chiesto a Gallinari, a Bargnani, a Belinelli, a tutti quelli che hanno frequentato l'NBA. Simone Sandri da New York, buongiorno Simone. Non mi sente Simone Sandri da New York. Volevo chiedere anche a lui chi vincerà il prossimo titolo NBA e i pronostici sono abbastanza unanimi, cioè finale Golden State Cleveland e vincerà LeBron James. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Non so se vuol parlare di NBA o di altro, dica. Vabbè, a parte che basket ci ha anche giocato parecchi anni, però volevo parlare di due. E allora chi vince il titolo NBA? Vediamo se è d'accordo con Gallinari, con Belinelli, con Bargnani, con tutti i nostri abituali ospiti. Non seguo l'NBA ultimamente, quindi non posso dare un consiglio giusto. E chi vince il campionato italiano allora tra Milano e Reggio Emilia? Io spero Milano. Un po' per così, per i ricordi delle scarpette rosse. Dica, un attimo solo, volevo parlare di Conte. Il problema della nazionale per me è Conte, perché Conte deve essere la stella, quindi lui la qualità oggi come oggi non l'avrebbe mai portata, perché se vince, se va bene, vince lui, perché lui accentra tutto. E questo è il problema della nazionale italiana. Ci fosse stato Berzotte, secondo me portava la qualità. Sì, va bene. Andiamo un po' indietro con gli anni. Certamente Conte è un accentratore, certamente Conte è uno che ha personalità, certamente Conte è uno che fa le sue scelte. Simone Sandri a New York, ci sei? Buon pomeriggio, Carlo. Ciao, Simone. Da Oakland, non da New York. Da Oakland, naturalmente. Ti sta battendo il cuore per il Novara? Un pochino battendo un po', è stata una grande stagione con si è andati oltre gli obiettivi previsti, per cui c'è poco da dire. Poi siamo andati oltre gli obiettivi previsti, eh? E Pescara dimostra di essere superiore nella due, per cui c'è poco da dire. Senti, da Oakland, sei d'accordo con Gallinari, con Belinelli, con Bargnani, con tutti gli ospiti che abbiamo avuto, abbiamo intervistato nei giorni scorsi? A tutti loro ho chiesto: fate Obama, fatemi il calendario dei playoff, e tutti hanno detto Golden State contro Cleveland e vince Cleveland. Sei d'accordo? Sì, diciamo che è abbastanza. Innanzitutto, se qualcuno ti ha detto sul 3-1 di Oklahoma beh, City, no, contro Golden State, quello no. Io devo dire che anch'io l'avevo previsto, soprattutto quando ho fatto fatica, nel momento in cui aveva fatto fatica con Golden State contro Oklahoma City. Devo dire che questo comeback contro i Thunder e fa sì che comunque arrivi la squadra. Fa abbastanza ridere che la squadra migliore di sempre della regular season, campione in carica, siano considerati una sorta di underdog Però è vero che sì, ma quanto si sono spremuti per arrivare a quel record? Ci arrivavo, hai certamente ragione. È vero che Cleveland ha fatto dei playoff eccellenti con una conference dove oggettivamente il valore è inferiore, credo che si sia visto, ed è proprio assolutamente così. Ci sono sicuramente le energie mentali e fisiche che hanno dovuto mettere per arrivare in finale, soprattutto per il prezzo da unico e leader contro Oklahoma City. L'ultima partita è stata lunedì, per cui mentre Cleveland era ad allenarsi dopo aver passeggiato contro Toronto, anche se passeggiato fino a un certo punto, perché hanno fatto una discreta fatica. Comunque non è mai stato, la verità è che non è mai stato in dubbio la serie, anche le due partite che Cleveland ha perso sono stati incidenti di percorso, sono state situazioni particolari, ma la realtà vera non è mai stata veramente in dubbio quella serie. Per cui è comunque sicuramente dal punto di vista dell'energia mentale fisica non c'è dubbio che Cleveland arrivi con un altro approccio però detto questo, Golden State è la squadra che ha fatto tre partite regular season ed è una squadra che ha forse il miglior backcourt di sempre della storia dell'NBA, per cui considerare gli underdog è abbastanza difficile. Detto questo, forse anch'io do un piccolo vantaggio a Cleveland, se dico Cleveland in sette partite. Detto questo, bisogna capire quanto si sono spremuti per arrivare fin qui, e secondo me si sono spremuti molto, Simone. Perché per arrivare fin qui, cioè record della regular season, questi playoff difficilissimi, secondo me sono spremuti come limoni. Sono assolutamente d'accordo, però si sono spremuti, ma adesso devono giocarla, per cui adesso si sono spremuti e vediamo come reagiranno. Sarà importante gara 1, credo che sarà l'occasione migliore per Cleveland per riprendersi il vantaggio del fattore campo. E credo che sicuramente è un dato di fatto, quello che dici tu è sicuramente un dato di fatto. È anche un dato di fatto che Golden State è una squadra straordinaria che può recuperare qualsiasi parziale, non è mai morta, per cui anche psicologicamente battere non è facile, per cui è una serie molto aperta, con un sacco di argomenti di lettura che sarà sicuramente affascinante, e secondo me va a gara 7 e poi vediamo cosa succede a gara 7. Tu dici? Pronostichi gara 7, va bene. Okay. Allora ci sentiamo in corso d'opera. Secondo me LeBron James porta a casa questo titolo, e questo è il mio pronostico. Non ne azzecco uno, Simo. Non ne azzecco uno, però secondo me LeBron James porta a casa questo titolo. Grazie a Simone Sandri, ci sentiremo nel corso dei playoff NBA. Francesco, buongiorno. Sì? Sì? Posso parlare? Come no, dica. Senta, io volevo far notare un aspetto che sicuramente avrete notato anche voi. Si parla tanto di errori arbitrali che si compensano durante l'anno, no? Ma io sono dell'avviso che invece determinati errori Francesco, fatti in un certo momento del campionato hanno un particolare incidenza sull'esito finale. Per esempio, ne menziono uno, la partita di Torino-Juventus, la partita di ritorno, finita come è finita, che è ben nota a tutti. Se fosse andata, diciamo, anche solo un pareggio, alla sera il Napoli avrebbe vinto con il Genova. Sì. E quindi sarebbe andato un punto. Chi lo sa? Francesco, la prego, non il 2 di giugno. La supplico, non il 2 di giugno con gli errori arbitrali. Marco, buongiorno. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao, niente. Io non il 2 giugno con gli arbitri, No, assolutamente. Però voglio parlare di una cosa ancora più grave per me, che sono milanista, della possibile della speranza di essere acquistati da questi benedetti cinesi. Ma quali cinesi? Ancora nessuno ha capito quali. Volevo dire però questo, siccome nemmeno io ho capito quali, però io su una cosa sono ottimista e penso che debba succedere qualcosa, perché dico: ormai sono 3 anni che andiamo avanti di male in peggio, e un'altra stagione con continue protette. Marco, bisogna capire se Berlusconi ha voglia di vendere il Milan, e io di questo non sono così convinto. Quindi, cinesi o non cinesi, mi sembra che la strategia dell'Inter sia abbastanza delineata e chiara, quella del Milan molto meno. Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport, buongiorno. Ciao Vincenzo. Buongiorno a voi. Ciao. Grazie ancora che mi date la Gazzetta dello Sport. Io vi devo confermare che mi hanno mandato in prepensionamento, quindi... Posso venire? Non lo so, sai che è dura fare il pensionato, c'è un sacco di attività. Mica tanto. Vincenzo, chi vince Roland Garros? E io avevo detto e scritto anche dove collaboro Wawrinka. E io penso che Wawrinka abbia una grande possibilità, non è solo campione uscente, ma in queste condizioni di campi pesanti, palle pesanti, lui una chance in più ce l'ha, anche perché adesso ha una semifinale con Murray nella quale è leggermente favorito. Murray ha già fatto tantissimo e forse si può sentire un po' appagato. Vedo un Djokovic non straordinario, anche no, se anch'io. Sta servendo per il match contro Berdych adesso 3-7-0, è troppo nervoso, sente troppo questa vittoria, l'unica slam che gli manca, e poi secondo me ha avuto anche un calo fisico, cioè ecco, appena ha battuto Berdych 3-7-0, lui ha avuto un calo fisico secondo me perché il gioco è troppo dispendioso, lui fa tanta fatica, non ha i punti facili che possono avere altri giocatori, mentre per esempio adesso c'è in campo questo team, l'austriaco, che ha dei colpi incredibili, ha veramente un pugile col pugno del KO, e il tennis ha veramente bisogno di giocatori così che diano un po' di spettacolo sulla via dell'addio di Federer. Sì, sulla via dell'addio di Federer e anche di Nadal? Io credo che... Guarda che Nadal è un giocatore molto usurato, perché lui a 16 anni già giocava ad altissimo livello. Per questo che te lo chiedo. E ne ha 29 e ormai, insomma, voglio dire, è tantissimo che gioca così. Poi ogni volta che tira lui, poverino, si sbraccia come uno stesso, insomma, questa racchetta gli va a destra e a sinistra, il polso, poverino, con tutte quelle rotazioni si sarà pure spezzato, insomma, è anche lecito. Consentiamogli un onesto buon ritiro dopo l'Olimpiade. Io credo che dopo l'Olimpiade ci saranno molti ritiri, molte situazioni che cambiano nel tennis. Cioè, tu dici Nadal, tu dici Federer. Ma anche Federer, se dovesse fare un grande risultato, sai, perché continuare? In fondo lui ha fatto tutto quello che doveva fare, cosa gli manca? E Sharapova, vediamo che succede con questo però anche la Sharapova, se dovessero rimetterla in sesto, ma anche se non dovessero rimetterla in sesto, potremmo pensare che chiude qui. E la stessa Serena, tu dici sì, ma lei continua a vincere, ma sai, quando un giocatore è stanco, sono spremuti. Sono spremuti, giocatori Vincenzo, sicuramente spremuti. Sono tutti spremuti come guarda limone. Che Serena fa una grande fatica perché non ha il fisico dell'atleta, poverino. No, certo. Ha il fisico di molte cose, ma non dell'atleta. Ciao, poverino. Vincenzo, grazie. Arrivederci. Ciao Vincenzo Martucci, ci fermiamo qui, torniamo naturalmente domani in diretta alle 14 con tutti i convocati. Io ringrazio Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione, e ciao a tutti. Che spettacolo, da brividi!